nuovamente buongiorno, ben ritrovati in diretta con Jazz Live di Radio Città Fucino. La puntualità c'è, siamo stati bravi, abbiamo anche prenotato il sole per voi. Senti che bel caldino che mi sta aiutando per il mio mal di schiena, e quindi Alfredo già di fronte a me per la co-conduzione per la puntata odierna. Buongiorno Alfredo. Buongiorno, e non insistare tanto sul sole prima che ci accusino del cambiamento climatico. No, infatti ho già preso, noi siamo innocenti, negazionista più volte, ma non è così. No, assolutamente, anzi tutt'altro. Comunque parliamo anche di jazz. A volte. Così, a volte noi tra una divagazione, anzi oggi parleremo di fotografia, sempre in ambito di jazz. Multidisciplinari. Sì, oggi siamo eterogenei per quanto riguarda i contenuti del Jazz Live, come di solito troveremo un amico anche che da Padova ci porterà il suo pensiero per quanto riguarda la struttura jazz odierna. Ed è un amico che fa un'ottima programmazione di jazz, peraltro. Sì. È l'anima del jazz padovano. Esatto, ma lo vedremo. Lo conosceremo nella seconda parte. Intanto abbiamo una puntata molto corposa, tanto per cambiare. E quello che vi posso dire, in partenza con il Jazz Club Il Torrione di Ferrara, è arrivato il momento del 7 Virtual Jazz. È un appuntamento che a me affascina tantissimo, perché dà la possibilità di conoscere nuove formazioni, anche musicisti affermati, e soprattutto a me non ha mai deluso il 7 Virtual Jazz. Oggi, per quanto riguarda questo incontro, avremo una formazione, un gruppo di recente formazione che ha anche proposto un suo lavoro che riporterà poi al Torrione. È un gruppo che viene e si è imposto ai festival di Tel Aviv e Gerusalemme. Ovviamente ha un'interpretazione jazz di tradizione medio orientale, ha una formazione classica ma nello stesso tempo anche molto innovativa. Hai mai assistito a dei concerti del 7 Virtual Jazz? Ne ho visto uno e devo dire che sono rimasto soddisfatto. È molto importante. Comunque sì. Stasera Sandia o Sandia, non so come si dica. Non lo conosciamo. Dekel Epstein al sassofoni, Shauli Sub al pianoforte, Jonathan Heruti al contrabbasso e Shani Dar alla batteria. Vedremo se questo gruppo di matrice israeliana avrà dei risentimenti klezmer, come dire, se affonda la radice oppure se altro. Beh, tutto da scoprire. Ho selezionato un brano. Allora scopriamolo subito. Lavoro. Sì, e oltretutto con Francesco Bettini daremo il via a una conversazione per fare una panoramica generale per il 7 Virtual Jazz edizione 2024. Hai visto, ho giocato d'esperienza, ho lasciato a te la pronuncia dei nomi, Alfred. Dunque, è un contest internazionale, diversi musicisti e sempre più bravi, tra l'altro, nel corso del tempo, perché credo che abbia 4-5 anni come iniziativa, si iscrivono e poi partecipano. Mandando ovviamente del materiale sia audio che video. C'è una giuria che cambia tutti gli anni. Una volta sono stato giurato anch'io, ma ci sono tantissimi altri soggetti anche, diciamo, tra gli organizzatori, booking agent e via dicendo, anche rilevanti nel panorama nazionale e internazionale. Soprattutto, per dire, c'è dentro anche, non so, il direttore del Ronnie Scott di Londra, quindi, ma tantissimi importanti organizzatori e anche giornalisti e critici, mi viene da dire. Adesso non sono così ferrato perché, diciamo, l'ho sempre, perdonatemi il termine, subita la cosa, cioè in questo senso. E siccome Torrione è un bellissimo spazio e ormai è anche uno spazio di prestigio, i vincitori del contest hanno diverse opportunità. Mi spiego meglio. Taluni hanno la possibilità di ottenere una registrazione in uno studio in Spagna, altri di esibirsi al Torrione ma anche in altre strutture affiliate al contest, per altri ancora c'è una sorta di promozione del loro materiale, via dicendo. E noi in questo senso lo subiamo, cioè non recitiamo un ruolo attivo, ospitiamo alcuni dei vincitori di questi contest. Dico alcuni perché sono diverse categorie. Quest'anno saranno due, sia i vincitori pro che i vincitori, diciamo, della sezione giovani e emergenti. Quindi il venerdì entrante ci sarà questo gruppo di giovani, si chiama Sandia, sono un quartetto di musicisti israeliani molto in gamba, oltretutto, quali attraverso questa data coperta da 7 Virtual ci hanno attaccato anche una piccola tournée italiana, per cui faranno 6 o 7 concerti in altri spazi più o meno prestigiosi, ma questo poco conta. Insomma, fanno un tour in Italia per la prima volta. stessa identica cosa in aprile, quando verrà il gruppo dei Pro che ha vinto l'ultima edizione, si chiamano No Sax No Clar, un duo francese di fiati, verranno a suonare il Torrione, poi stanno cercando, ma credo che in alcuni casi abbiano già trovato, per esempio a Siena, di attaccarci delle date. E quindi noi siamo, come dire, un po'... quindi è un po' il polo del Torrione, diciamo, di caduta di questi giovani e meno giovani musicisti vincitori del contest. Trovi al Torrione dei giovani che arrivano selezionati da un contest, il Seven Virtual Jazz. Hanno questa struttura medio orientale col klezmer, dalla tradizione, anche con uno studio nella classicità, un modern jazz nel linguaggio di improvvisazione, nella location del Jazz Club di Ferrara. Mica male questa serata, Mi domandavo se c'era l'impronta klezmer, sì. Ce n'è in abbondanza. Direi di ascoltare quasi i Masada oppure i Klezmatic, è in quel solco lì. Preciso solo una cosa, sono riuscito a intercettare il brano che dà il titolo al loro lavoro, Navad per Sandia, che sarà in presentazione questa sera alle ore 21:30 al Torrione di Ferrara. Quasi faccio la doppia dopo aver ascoltato qualche nota. Insomma, è una rassegna, come ho già detto, che oltre a proporre, incuriosire, affascina sempre. Io ci tenevo a questa conversazione perché innanzitutto io voglio evidenziare, di solito no, sai, è un contest, i ragazzi, per i giovani, il livello è altissimo, io ogni volta resto sbalordito dai concerti che non mi hanno mai deluso, veramente molto preparati e anche per incuriosire il pubblico, per conoscere nuove voci. Sì, sì, assolutamente, anche nel nostro caso, ti dirò di più, che alcuni di questi, soprattutto diciamo nei Pro, li conoscevo già precedentemente e qualcuno era già venuto a suonare qui ufficialmente, per cui già diciamo musicisti noti con una carriera alle spalle, ma è soprattutto con i giovani che diventa estremamente interessante perché hai molta meno facilità di incrociarli e con il supporto dato dal conte stesso ai viaggi, all'ospitalità, tutta una serie di cose, poi è chiaro che il gruppo riescono anche appunto a costruirsi delle piccole tournée. Per dirne, uno dei vincitori delle primissime edizioni è stato Gilad Axelman, che è quello che è venuto a suonare qui con Trio Grande, che era già venuto in passato, come sì, professionistissimo, insomma, non è che... E anche il duo francese che verrà in aprile, per esempio, è già stato recensito su un numero recente di Musica Jazz, con una recensione entusiastica, a dir poco, del progetto musicale che verranno a presentare qui. Per cui non è che stiamo parlando di emeriti sconosciuti, tutt'altro, no. Però sai, tante volte è difficile riuscire a creare una circuitazione per chi non è estremamente noto a livello internazionale. È più difficile costruire dei tour, e questo è un dei sistemi che aiuta e che dà una mano proprio a questa circuitazione, a maggior ragione con i più giovani, e per loro è anche una bella esperienza, insomma, riuscire a fare qualche data, una tournée in Italia. Dipende anche molto da loro, perché taluni sono bravissimi a organizzarsi, a attaccare date, e altri sono un po', diciamo, meno capaci di smuovere il loro, diciamo, business. E quindi è capitato che venissero per una data secco, per qualche data sola. Altro esempio, Alex Hitchcock, che era venuto come vincitore del contest, poi torna a capo del suo quintetto, senza il supporto del contest, ma perché ci era piaciuto e l'abbiamo invitato, e aveva già delle date in Europa sistemate in questa formazione di base tra Europa e Stati Uniti. E bravissimo musicista che ho conosciuto anche grazie a questa collaborazione, di cui siamo molto contenti, anzi siamo, come dire, di essere partner, perché di certo siamo. Dimenticate ogni idea di riempitivo di programma, anzi tutt'altro, è un valore aggiunto immenso. Ogni volta, ribadisco, ne sono rimasto piacevolmente stupito, e io stesso ho conosciuto nomi nuovi per questo 7 Virtual Jazz, per il Torrione Jazz Club. Grazie Francesco e buona serata. Ci mancherebbe, buona serata a noi, visto che siamo a sentirci un concerto questa sera, ma non vi diremo di chi, o ve lo dirà William. Certo, tra pochissimo. Sotto la grazia. Ha già fatto il lancio per il rientro in diretta Francesco Bettini, allora stiamo ascoltando un brano del concerto di Francesco Ponticelli, ascoltati per voi venerdì 9 febbraio, esattamente una settimana fa, Mega Pascal, con Francesco Zanisi al pianoforte, Samuele Cima alla chitarra, alla voce, Ponticelli al contrabbasso, Giovanni Iacovelli alla batteria. Un disco e un concerto piacevolmente strano, ecco, abbiamo ascoltato qualcosa di diverso, tra virgolette, ha detto Francesco al termine del concerto, e fra l'altro condivido questa analisi. È una formazione giovane. Francesco Ponticelli ha portato la sua narrazione musicale, che ha sfociato dal rock a un uso dell'elettronica molto interessante, né invasivo e assolutamente presente in maniera costante. Un concerto dal titolo Mega Pascal, dal loro ultimo lavoro per Tuk Record. Francesco Ponticelli, come ho detto, assolutamente in maniera diversamente normale, come mi piace a me spesso definire alcune sensazioni, ha portato un Friday Night Raw assolutamente interessante. Ne ascoltiamo qualche secondo e poi parleremo di un appuntamento, tornando al momento del venerdì attuale, per questa sera un fuori programma dedicato alla fotografia. Come Comunque Zanisi resta un musicista assolutamente da seguire, molto interessante il suo percorso all'interno di questa formazione. Tu già conoscevi Enrico Zanisi, tra l'altro. Certo, uno dei musicisti, quelli che sono messi in luce, una generazione di giovani qualche anno fa. Adesso okay. Possiamo già definirli. Sono tutti maturi. Cresciuti nel frattempo, compreso il prossimo, il pianista di cui parleremo. Però adesso non anticipiamo i cavalli. No, anzi, andiamo passin passino perché abbiamo qualche divagazione. La prima è legata a questa colorazione in bianco nero che spesso troviamo in ambito jazz, no? Allora uno può immaginare a quelle foto bellissime, peraltro, no? Che riprendono il palcoscenico, riprendono alcuni musicisti intenti nell'impegno di suonare. Abbiamo l'immagine del jazzista, no? Con Michele Bordoni un aspetto può essere attinente a tutto ciò, ma abbiamo trovato anche altre realtà per me molto affascinanti, appunto, non so, l'attesa del concerto, il recarsi al Torrione, Ferrara città delle biciclette e trovare ragazzini che corrono in bicicletta e trovare allo stesso tempo, come avete sentito nell'interferenza con la conversazione con Francesco, anche il traffico per arrivare in attesa del concerto, no? Io che gironzolo, non ci sono, ma immagino, sto pensando, io che gironzolo col cellulare in mano per prendere interviste e andare a disturbare i protagonisti, insomma, è tutto un insieme di cose che accompagnano l'arrivo al concerto e anche l'uscita dal concerto, che non solo al Torrione Michele Bordoni ha voluto così ritrarre. Sentiamo di che si tratta. Venerdì 16 febbraio, dove oltre che musica al Jazz Club di Ferrara troveremo un graditissimo ritorno, già presente come appassionato di jazz. Per ritorno intendo come immagini per presentare un suo lavoro, Michele Bordoni, che è qua con noi. Buongiorno Michele. Ciao William, buongiorno, buongiorno a tutti. Com'è nato questo tuo lavoro di queste note in bianco e nero? È un lavoro nato tantissimi anni fa, diciamo più di 10 ormai. È nato dall'idea di raccontare il jazz con quel linguaggio d'eccezione che è il bianco e nero. Tutti ci ricordiamo i grandi del jazz e ce li ricordiamo con le immagini in bianco e nero. Quindi fin da subito, da quando ho cominciato a fotografare il jazz nel 2012, ho estrapolato dai reportage che facevo di concerti con il contagocce, uso sempre dire questa cosa, con il contagocce estrapolo delle immagini, le immagini più iconiche, le immagini che desidero raccontare con il bianco e nero, perché è un linguaggio diverso da quello tradizionale che è il colore. Il linguaggio è esteso, diciamo che ho preso in considerazione tutte le esperienze mie del jazz, ma sicuramente il Jazz Club ha sicuramente un peso importante, se non dire il peso maggiore, ecco, oltre alle immagini che compongono il libro, quindi le immagini scelte per raccontare i musicisti e quello che accade sul palco, in contorno a tutto questo nel libro ci sono delle altre immagini, e anche lì il Jazz Club la fa da padrone, perché sicuramente l'immagine più iconica è quella del Jazz Club di notte, con tutta la serie di elementi che lo caratterizzano, che caratterizzano la città di Ferrara. Quindi vabbè, non voglio svelare, però vabbè, c'è una bicicletta, ci sono dei ragazzini che corrono, c'è il Torrione, tutto, e questo è l'immagine in bianco e nero. Ti chiedo quanti scatti hai riportato nel tuo lavoro? Ah, gli scatti sono tantissimi, perché ho una perenne difficoltà a scegliere le immagini, perché a ogni immagine c'è dietro una storia. C'è dietro una storia che può essere legata al personaggio, quindi un legame affettivo, può essere legata a quella serata, quindi le immagini sono circa 115, più c'è una serie di immagini che lo completano, che raccontano, come dicevo prima, i luoghi, il contesto, che contestualizzano quello che è l'evento in sé, quello che racconto nel libro, che è quello che accade sul palco. Quindi tradizionale, ma fino a un certo punto, ecco, perché hai messo del tuo, ovviamente. Sì, a me piace sempre raccontare anche quello che accade intorno. Cioè, il percorso che porta me, che vabbè, che potrei essere considerato sì spettatore privilegiato perché posso fotografare, ma un qualsiasi spettatore, quindi il percorso che per raggiungere il luogo del concerto, l'attesa durante il soundcheck e tutta una serie di elementi che caratterizzano in particolare il jazz. Noi abbiamo appuntamento quindi per venerdì 16 febbraio, ovviamente 2024, e avremo modo anche di vedere queste note in bianco e nero. Grazie Michele e a presto allora. Grazie a voi, grazie a tutti e ci vediamo presto. Allora, il disco che accompagna, almeno che io ho immaginato, se vogliamo, perché me lo trovo come immagine, se vogliamo, iconografica del jazz, è il sax di Dexter Gordon. E Dexter Gordon stesso, no? Lui rappresenta, bianco e nero, sì. Lui rappresenta molto, secondo me, questa sensazione. Ma non solo, ribadisco, anche un contesto diverso. Ma sai, quando pensi bianco e nero, a me mi viene la Billy, ah, cioè, dove spara questa orchidea bianca. No? La Billy Holiday. Ognuno ha la sua. Sì, no, infatti, vedi, anche abbiamo diversi immaginari. Cioè, io un debole per la Billy. Certo. Come darti torto. Allora, siamo arrivati a sabato, tra l'altro, giornata di domani, e tu hai detto non voglio anticipare, abbiamo parlato di Zanisi, adesso parliamo di Alessandro Lanzoni. Sì, diciamo dei giovani, vecchia generazione, perché 11 anni fa, sì, Top Jazz lo nominò miglior pianista emergente. Effettivamente devo dire che poi in 11 anni è cresciuto parecchio, quindi la tecnica è creata anche una personalità, l'abbiamo già detto, visto anche al Festival dell'Aquila, ha dimostrato una capacità vicino a Francesco, il siciliano famoso della banda dei siciliani, ok. Dopo ci verrà in mente anche questo comunque nome. Comunque il pianoforte che unisce un elemento lirico quasi classicheggiante, poi un linguaggio jazz così nervoso, frammentato come deve essere. Io ho contattato Lanzoni, sarà poi in buona compagnia. Allora, un contrabbassista che io seguo, che è Gabriele Evangelista. Che bravo. È molto bravo. Io ho una coppia di contrabbassisti, che Filippo Cassanelli e Gabriele Evangelista. Per poi me c'è sono la batteria di Jeff Ballard. Ok. Che l'abbiamo visto assieme a Meldau, al gruppo del Tower The Flying. Cioè, sì. È un personaggio di comprovata esperienza. È un bel trio. E di questo trio ne ho parlato direttamente con Lanzoni, Alessandro Lanzoni. Perché abbiamo proprio l'intenzione di lasciare molta libertà e scegliere sul momento che cosa suonare, quindi per adesso, quando abbiamo fatto anche altri concerti, abbiamo utilizzato questo metodo qui di cominciare da un'improvvisazione libera e poi, a seconda di dove siamo capaci di direzionare questa improvvisazione, a un certo punto entriamo dentro un altro brano esistente, che può essere una composizione originale nostra, perché ognuno porta qualche pezzo scritto, o altrimenti degli standard, perché un'altra cosa che ci lega è l'amore profondo per gli standard jazz, e ci piace suonarli comunque al nostro modo e di costruire sul momento qualcosa insieme. Il nostro focus è sempre sul suono, sulla dinamica, sulle idee che ognuno di noi ha, e di vedere come possiamo integrarci, come stare insieme. E questo chiaramente non vale solo per lo standard, ma per qualsiasi cosa che stiamo suonando, che sia un brano originale o un'altra cosa. Quindi che ci rende anche, diciamo, più felici e coinvolti nel suonare insieme è proprio di stare in ascolto e di vedere come si può evolvere il processo lavorando insieme. Thank you. Dalla descrizione di questo lavoro leggo che hanno provato a mettere insieme Thelonious Monk e Jobim, per cui è un bel matrimonio. Davvero Monk Lives, che è in questo brano, e c'è un tempo che per me è giocato bene tra batteria, basso sì, e piano, molto colto e molto così sì. Che sembra spezzarsi, poi invece c'è sempre solido. Francesco Carfiso, venuto in mente, sassofonista che era con Lanzoni a Aquila. Di origine siciliana. È un grande, è bravissimo. E io ho voluto un po' sapere anche come Alessandro Lanzoni ha conosciuto e ha iniziato questa collaborazione con Jeff Ballard. Quando io ero ancora studente a Siena Jazz, lui invece insegnava ai seminari estivi, mi hanno chiamato a fare una sostituzione perché per il concerto degli insegnanti mancava pianista, e quindi sono stato molto fortunato e quindi ho suonato con Jeff, Larry Grenadier contrabbasso, Ambrosa Kimuzir e Miguel Zenon. Quindi quella è stata la prima volta. Poi ho fatto un altro paio di concerti con lui nel gruppo di Seamus Blake in questi anni, e dopo lui si è trasferito a Sesto Fiorentino, quindi abitiamo molto vicino, io sono di Firenze, quindi adesso siamo amici e suoniamo spesso insieme, e abbiamo deciso di fare questo nuovo trio insieme a Gabriele Evangelista, che insomma è un altro mio partner con il quale c'è un sodalizio musicale che è cominciato, è forse il musicista con cui ho suonato di più in assoluto e con il quale ho cominciato anche a suonare quando avevo circa 14 anni. Ci vedremo al Torrione per il concerto di sabato con Alessandro Lanzoni, Gabriele Evangelista, Jeff Ballard per quanto riguarda la stagione 2023-2024. Grazie e buona giornata. Fantastico. A presto. Grazie. Ciao. Grazie a te. Ciao. Eccolo qui, portato a termine l'approfondimento per il concerto di questa sera e per il concerto di sabato, ma anche al Torrione, domenica è sempre domenica. Si sveglia le campane con le campane. Con Giulia Barba, che già abbiamo conosciuto, finalmente troveremo la grazia dell'informe. Beh, viene in mente l'informale anche come corrente artistica, ne parleremo comunque. Marta Ravaglia alla voce, Giulia Barba a saxofoni, clarinetto basso ed elettronica. Dopo la pubblicità, a tra poco. Thank you. e viene accolta dalla musica di Michael Formanek che abbiamo ascoltato qualche giorno fa al Torrione in un main concert. Ma ora parliamo della rassegna sericotonale che ho anticipato in precedenza con la curatela di Istantanea. Troveremo nella grazia dell'informe Marta Raviglia alla voce, Giulia Barba ai saxofoni, clarinetto basso ed elettronica. Finalmente Giulia Barba è qui con noi, alla quale do il buongiorno. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi e grazie. Grazie a te, ce l'abbiamo fatta Giulia, qualche appuntamento mancato, adesso è il momento. Allora, sì. La grazia dell'informale, io ho detto, non dell'informe, sai perché? Ah. Perché io ho questa, diciamo, interpretazione artistica. Allora, la corrente informale messa nel jazz, sì, ha portato così un'intersezione e un'interpretazione mia, anche ogni tanto improvviso. Allora, cosa ascolteremo al Torrione nella giornata di domenica 18 febbraio? Allora, in sostanza sarà una piccolissima anteprima di un nuovo disco che sta per uscire, che uscirà nei prossimi mesi, che si chiama appunto La Grazia dell'Informe. È un disco che abbiamo registrato io e Marta assieme a altri sei musicisti, cioè siamo in sette in tutto, quindi altri cinque musicisti, quindi è un progetto molto più grande, diciamo, quello discografico. Sì. La cosa in comune sono i testi poetici di Virginia Farina, che è una poetessa sarda che vive a Bologna, con cui io ho iniziato a collaborare l'anno scorso. Quindi diciamo che la versione di domenica sarà una versione ridotta, clarinetto basso e voce ed elettronica, però il materiale è poi quello che verrà pubblicato nel disco. Sì, e l'interpretazione mia con l'arte ha deviato un po', è un'interpretazione più letteraria in questo caso, con la poesia. Esatto, certo. Esatto. Intanto esatto, ti volevo fare i miei complimenti perché il disco sonoro precedente secondo me è bellissimo, per cui insomma, grazie, aspettiamo anche questo lavoro con grande curiosità. Anzi, guarda, lo metto come sottofondo con il brano Game Over, è stata una sorpresa per la rassegna della domenica al Torrione. Qui con me c'è Alfredo Pasquali, te lo passo qua. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. No, si dice, parlando del jazz, che il jazz è quella cosa che vocalizza gli strumenti e strumentalizza la voce. Bello. Quanto è vero, sì, nel tuo incontro con Marta? Verissimo, verissimo, verissimo. Ma ci sono tante cose, nel senso, ci sono forme canzoni, ci sono puri suoni astratti. La cosa bella che riesce sempre con Marta, devo dire, non c'è nessuna necessità di parlarci, ecco, viene proprio abbastanza istintiva il cambiamento tra voce e strumento, per lei è molto istintivo, è sempre venuto molto facile questa cosa. L'utilizzo dell'elettronica, Giulia, come ti approcci, sì, a tutto ciò? Con grande cautela, direi. Bene. Perché io, chi un po' mi conosce sa che non ho mai usato l'elettronica, sarà la prima volta in vita mia, e sarà solo proprio un piccolissimo, non sottofondo, perché comunque è una presenza importante, però io la uso non live, ci tengo a specificarlo, perché okay, il modo in cui la uso io è una creazione di suoni da un sintetizzatore che però io registro. Sì. Quindi la mia ricerca elettronica è proprio sulla creazione di un suono che io stessa non potrei mai creare, ok? Quindi non ha niente a che vedere né con le ripetizioni che di solito avvengono con l'elettronica, che è una cosa che io aborro, la ripetizione in musica, quindi ho cercato di eliminarla. Cosa frequente, peraltro. Il sì, loop sì, si sente spesso. Esatto, quindi cerco proprio di non usarlo, oppure di usarlo in un modo completamente diverso. D'altra parte, hai uno strumento come il clarinetto basso che ha un'escursione timbrica incredibile, quindi arrivi dappertutto. Sì. Certo. Sì, allora, avremo modo dopo sonoro di conoscere, questa volta lo dico bene, senza interpretazioni, La Grazia dell'Informe. Sarà per domenica, per la rassegna sericotonale a cura di Istantanea. Ce l'abbiamo fatta. Grazie Giulia. Ciao. Grazie. Grazie a voi. A domenica. Ciao. Grazie, buona giornata. voce di Marta Raviglia, tutto ciò dal loro lavoro sonoro, che per me è un disco bellissimo, seppur particolare. Del resto, ricercare, come dico spesso, alzare l'asticella della musica e del nostro gusto è qualcosa che porta la rassegna Serico Tonale, e ce ne dà l'opportunità il Torrione, già come noi presentiamo per la conclusione del weekend. È il momento del gemellaggio Emilia-Romagna-Veneto. Sì, andiamo a Padova con Enrico Bettinello. Allora, due parole per introdurre questo dialogo molto particolare che ho avuto con Enrico, che ringrazio. Lui è critico, musicologo, appassionato, organizzatore. Sì. E allora ho voluto aggiungere questa voce alla puntata odierna anche per spaziare con ospiti che hanno la possibilità di allargare la nostra visione in ambito jazz, e non solo. Con Enrico Bettinello, visto la confidenza, mi permetto, è stata un'intervista molto dialogica, molto così, molto jazzistica, molto improvvisata. Allora, io volevo fare un focus su questo aspetto del jazz, che è certo legato a una tradizione, ma nello stesso tempo vi è anche un'interpretazione che è più legata a un pensare in jazz piuttosto che al jazz come lo intende l'iconografia classica, no? Del certo percorso jazz e tutto. Quindi adesso cosa vuol dire secondo te suonare jazz? Mi metterai in allora vuoi, ma stai già registrando? Sì, certo. Ah, ok, allora ricominciamo da che cosa vuol dire suonare jazz oggi? Vuol dire molte cose. Molte cose, come tutto quello che può implicare affrontare e relazionarsi con dei linguaggi, delle pratiche che hanno ormai un centinaio di anni di vita, lasciamo perdere gli anniversari, hanno più, hanno meno, comunque sono comunque un secolo, e un secolo denso di cose, di trasformazioni, un secolo breve, come lo chiamava Eric Hobsbawm, è un secolo di grandi, di velocissime trasformazioni e di grandi rivoluzioni proprio dal punto di vista della fruizione, della produzione di tutte le arti, e in particolar modo anche del jazz, per cui oggi fare jazz può significare davvero molte cose, essere così molto aderenti alla tradizione, voler portare avanti la tradizione, oppure anche riconoscersi in una serie di pratiche, in una serie di linguaggi, e provare ad apportare il proprio, così, la propria creatività e il proprio risultato creativo, e sommarlo a quello di tante altre compositrici, compositori, improvvisatrici, improvvisatori che stanno nel mondo. Noi ci scambiamo opinioni ogni tanto quando pubblichiamo, perché diciamo che c'è un seguire reciproco anche tra i dischi ascoltati durante la settimana, dischi recuperati nella settimana. Allora, il jazz in questo contesto quale ruolo può avere? Come omnicomprensivo o come ancora una specificità ben precisa? Ah, guarda, se appunto sui social uno si prendeva la briga a fine anno di andare a spulciare tra i vari dischi dell'anno dei vari gruppi oppure dei vari soggetti che stanno sui social, si accorgeva e si accorge ancora adesso, perché sono ancora scritte lì, bisogna andare un po' indietro nella bacheca, però si ritrovano, ci si accorge che a seconda dell'ascoltatore il concetto di jazz è molto diverso. Molti ascoltatori e ascoltatrici che sono arrivati recentemente ad approcciarsi ai linguaggi del jazz, magari attraverso il successo di Shabaka Hutchins e simili, vedono ad esempio solo in quel tipo di linguaggio un linguaggio jazz, quindi citano un sacco di dischi che fanno parte un po' di quella scena lì e magari ignorano totalmente altri dischi che vengono magari da un altro tipo di percorso e viceversa, per cui davvero ci sono molti mondi che stanno assieme e penso che la parola continui a dimostrare la sua capacità di essere flessibile, di essere omnicomprensiva, di venire interpretata in fondo, come è giusto che sia, un po' dal fruitore così come lo sente e così come fa parte della propria storia culturale. Vediamo bene quello che sta capitando anche nel mondo dell'arte, della cultura, della musica. Restiamo fiduciosi noi del jazz ancora di portare i nostri dischi preferiti, il concerto che ci aiuta a crescere, o stiamo un pochettino traballando? Allora, entrambe le cose direi, nel senso che fiduciosi sempre e non tanto e non solo per una così volontà un po' utopistica di essere sempre positivi, ma perché la qualità e le idee di tantissimi musicisti e musiciste anche delle nuove generazioni è fuori discussione, ci sono un sacco di idee, un sacco di stimoli e un sacco di proposte che sono veramente interessanti. Poi che ogni tanto il mondo del jazz vada a mettersi un po' nei pasticci per come si racconta, per come riesce a ingarbugliarsi da solo in una narrazione e in alcune ritualità che evidentemente comunità di pubblico più giovani non riconoscono proprio come loro, e in questo ci mette parecchio del suo la scena del jazz, e quindi bisogna sempre un po' provare a tenere la luce, i riflettori su quelle che sono i migliori esiti, le migliori idee, e provare un po' a togliersi da quelle che sono delle abitudini che sembrano abbastanza così inveterate, ma che in realtà si potrebbero facilmente superare. Io ti ringrazio tantissimo per questa conversazione, anche perché da tempo ci tenevo a portarti all'interno del format Jazz Live, e quindi sei arruolato, sarà modo di trovare la tua presenza magari anche in altre occasioni. E ti auguro una buona giornata, ovviamente. Grazie. Grazie anche a tutti voi, e grazie mille. E allora, se sono arruolato, tornerò. Ho portato un pezzo di Enrico tra la prima parte e la seconda parte di conversazione, Vatten Coma, che non conoscevo, quindi grazie della suggestione. Bel pezzo, bella intervista, devo dire, tra l'altro, che spiega perfettamente, parlando di diversi linguaggi, diversi pubblici, perché per Feltrinelli, Enrico Bettinelli non ha fatto la storia del jazz, ma ha fatto storie di jazz, perché quello che dice, ma jazz è uguale, cioè, perché non conosce la materia, perché o le materie, perché, e quindi si capisce anche il perché il sottotitolo: guida sentimentale alla vita e alla musica di 50 e più maestri, e quindi anche ovviamente scrittore e curatore di questi saggi, che ringraziamo tantissimo, e come ho detto arruolato nelle file di Jazz Live. Abbiamo parlato, ormai è un battaglione, e ormai va bene così, del resto, Alfredo, sì. Noi abbiamo sempre detto che sboccino mille file. Fiori, sì, no? Sì. Poi anche perché noi sono un battaglione di tutto disarmati, ma al massimo hanno un trombone. Sì, e vengano questi battaglioni così. Ma noi li accettiamo stravolentieri. Grazie per l'attenzione, vi aspettiamo per venerdì prossimo. Ciao, ciao. Com'era per le immagini, Alfredo? Tu hai Billie Holiday, io Dexter Gordon. Ho Love for Sale fatta da Dexter Gordon. Ah, così bella. Mi piace anche di Abby Lincoln. Ah, bella. Però sentiamo Dexter Buon Gordon. Buon gustaio. A venerdì, ciao. Ciao.